Dagli incontri nascono sempre nuovi stimoli, nuove idee. Ma quando ad incontrarsi sono dei musicisti, ecco che nasce qualcosa di profondamente diverso. Qualcosa che rimane e aggiunge una nuova nota sul pentagramma. L'esperienza dei magnifici e di destini incrociati in un nuovo programma, nel quale, attraverso i loro incontri, i grandi della musica danno vita a sorprendenti connessioni per creare nuovi mondi musicali. Radio 24 presenta I Magnifici Destini, un programma di Giacomo Zito. Una bomba sexy in miniatura, un'eterna ragazza diventata regina dei dance floor, un'australiana dalle mille vite. Lei è Kylie Minogue. Mi chiamo Kylie, ma i miei amici italiani mi chiamano la principessa piccolina. Vorrei ringraziare il Festival di Sanremo per avermi invitata e auguro buona fortuna a tutti. Oh. 5 milioni di dollari. Questa è la cifra a cui si dice Kylie Minogue abbia assicurato il suo lato B. Siamo nel 2000, periodo di Spinning Around, nel cui video compare l'oggetto, per così dire, in questione, fasciato da un paio di hot pants dorati che lasciano poco spazio all'immaginazione. Mera questione economica o vanità, fatto sta che la ragazza, a distanza di anni, ha appena dimostrato di saperci scherzare sopra, interpretando la parodia di se stessa in uno spot. Vediamo lei che arriva frontale, fasciata in un abito bianco lungo, e poi lentamente sale le scale, mostrando una scollatura che lascia scoperto ben oltre la schiena. Una voce off recita: «Le tue proprietà sono ben coperte? Proteggi e copri ciò che ami di più. Non aspettare domani, Beautiful Body of London». Ma il mistero è presto svelato. Non si tratta di uno spot di una compagnia assicurativa come può sembrare, ma di un video di 40 secondi che l'artista Caterina Jebb ha voluto intitolare Simulacro e iperbole, a significare una rappresentazione esagerata di qualcuno. Are your assets fully covered? Protect and cover the things that are most dear. Non è certo la prima volta che Kylie Minogue fa parlare di sé, e non sarà nemmeno l'ultima. Per dire, il celebre museo delle cere di Madame Tussauds a Londra ha realizzato a sua immagine ben 5 statue, che corrispondono ad altrettante fasi della sua carriera. Mentre a Melbourne l'artista Peter Corlett le ha dedicato un'altra statua per omaggiarla del suo aver portato la cultura australiana nel mondo. Su di lei il gossip è scatenato. Kylie che sta con il bello Olivier Martinez, attore fascinoso che a sua volta è stato con mezza Hollywood. Kylie struccata che finalmente dimostra i suoi 44 anni. Kylie che lancia la sua linea di biancheria da casa nel lussuosissimo hotel The Grove, Hertfordshire, Inghilterra. Kylie senza tacchi a fianco del suo nuovo fidanzato, modello spagnolo più alto di lei di 40 centimetri. E poi ancora Kylie con a gay. Kylie perseguitata su Twitter da un fan decisamente invadente. Rumors che fanno parte del gioco. Impossibile sfuggire ai tabloid per una star di fama mondiale come lei, che si contende con Madonna lo scettro di regina del pop. Kylie Minogue, nonostante il suo bel caratterino, accetta la curiosità sulla sua vita privata e risponde senza battere ciglio alle domande dei giornalisti. Ma c'è una cosa molto difficile e personale di cui parla per dare speranza agli altri. Il cancro che è riuscita a sconfiggere, ma che è ancora un ricordo doloroso. According to the Associated Press in Australia, Kylie Minogue has been diagnosed with breast cancer. They're quoting this. Kylie Minogue has been diagnosed with breast cancer. It was first detected last week and only confirmed this morning. She made the announcement earlier today. She's fought every inch of the way, and surely this will be her greatest challenge. She may be cancelling her world tour. Horrific circumstances. Her birthday later this month, in fact, Kylie Minogue, 37 years old later. The Australian singer said she hoped all would work out fine and told her many fans and her friends in the music business that she hoped she'd be back with them soon. In effetti la storia di Kylie Minogue racconta che la malattia si può sconfiggere. Il fatto che questo sia successo a un personaggio così noto lo porta alla luce, mentre tante piccole storie di successo quotidiano restano per la maggior parte nell'anonimato. Per lei, un brutto tumore al seno nel maggio 2005. Diagnosticato quasi per caso durante una serie di controlli effettuati in tour per via di una stanchezza un po' troppo strana. Inizia un percorso travagliato, fatto di medici, chemioterapia e una parziale mastectomia, il tutto lontano dai riflettori. E alla fine ce la fa, e pur ammettendo di aver vissuto momenti terribili, è pronta a dire al mondo che il tumore si può vincere. Io sono una persona molto solare, vulcanica, molto positiva, ma ho avuto momenti davvero terribili. In quei momenti non bisogna perdere la speranza. È questo il messaggio che voglio portare a chi ancora sta lottando. È possibile a soli 44 anni essere sulle scene già da 32? La risposta è sì, se stiamo parlando della Minogue. Nata il 28 maggio del 1968 a Melbourne, in Australia, Kylie Ann è la maggiore di tre fratelli. Gli altri due sono Brennan e Danny, che oggi è anche lei una cantante di successo, sebbene non sia facile gareggiare con una sorella come la sua. Il DNA dei fratelli Minogue racchiude un crogiolo di etnie. Papà Ronald Charles è di origine irlandese, mentre mamma Caroline è una ex ballerina gallese di Meshtag. Per lo stile di vita che ho, ci sono molti posti che considero casa. Mi piace pensare che le mie radici siano in Australia. La mia vita attuale è tra la Gran Bretagna e l'Europa e il futuro tutto da vedere. È bellissima l'eccitazione per tutto quello che non sappiamo. Le sorelle Minogue iniziano entrambe come attrici bambine. Hanno intorno ai 10-12 anni quando fanno per la prima volta le comparse in alcuni programmi TV, a cui seguono vere partecipazioni in diverse produzioni della televisione australiana. Danny inizia a cantare a metà degli anni 80 e diventa abbastanza famosa come cantante, mentre Kylie, meno decisa a intraprendere la strada dello spettacolo, pensa già di mollare il colpo. Neighbors. Everybody needs good neighbors with a little understanding. You can find the perfect blend. Finché un giorno legge sul giornale che stanno cercando volti nuovi per una soap dal titolo Neighbors. La trama ruota attorno alle vicende di alcune famiglie che vivono nell'immaginaria Ramsey Street. La serie non è mai arrivata in Italia, ma si tratta del format su cui è basato Un posto al sole. Fatto sta che la ragazza, che come attrice finora ha fatto ben poco, decide di lanciarsi in questa nuova avventura. Va al provino e la prendono. Con lei ci sono altri australiani che più tardi tutto il mondo avrebbe conosciuto, Jason Donovan, Russell Crowe e Natalie Imbruglia. Neighbors è un grande successo e fa sì che Kylie Minogue non possa più uscire senza essere riconosciuta. Basti pensare che la puntata in cui Charlene Mitchell, il personaggio da lei impersonato, sposa Scott Robinson, interpretato da Donovan, registra un audience record di quasi 20 milioni di spettatori nel Regno Unito. Lucky I looked under the dressing table, I would have gone without my gym boots. I will put them in a plastic bag first. Can you get me one? Yes, all right. I hope I've got everything. Well, Scott can bring up anything you've left behind. He'll have enough of his own stuff. Penso che il mondo si fermerebbe se scegliessi i tacchi bassi. Sono talmente assuefatta dai tacchi alti. Io stessa mi considero una stunt woman per tutto quello che sono riuscita a fare rimanendo in equilibrio. Anche le cose più assurde, sul palco e fuori scena. Amo le scarpe. Amo il modo in cui mettono in risalto le gambe. Ammetto però che per uscire quando sono di corsa non mi dispiace indossare un paio di ballerine. L'altezza, o meglio, la bassezza, per qualcuno è un problema. Durante l'adolescenza lo è anche per Kylie Minogue, che più tardi sarebbe stata definita la bambola in miniatura per via delle sue proporzioni perfette in 1,50 m. Ecco perché si è abituata presto a portare i tacchi vertiginosi che a volte sono quasi sculture. Gli stilisti la adorano. Dolce & Gabbana ne hanno fatto un'icona che a loro dire può indossare qualsiasi cosa. E lei ha cercato per tutta la sua florida carriera di mescolare moda e musica in modo che quasi si fondessero in un vero e proprio stile Minogue. Credo che il mio stile sia sperimentale, caratteristica che si riflette anche nel mio modo di fare musica. Sono sempre alla ricerca di provare qualcosa di nuovo, nella speranza che, grazie ai miei sforzi, riuscirò ad ottenere qualcosa di grandioso. Moda e musica richiedono un certo grado di rischi da correre, Una cosa che comunque mi diverte, quando poi la voglia di buttarsi è forte. Fortunatamente per me, ho spesso l'onore di poter indossare un guardaroba meraviglioso. Kylie Minogue è un'icona di stile sul palco quando indossa tutine striminzite dai colori accesi o imponenti abiti scultura che fanno parte a pieno titolo delle scenografie. Ma è un'icona anche nella vita privata. Non è raro vederla immortalata sulle riviste mentre cammina con un caffè in mano, sempre in bilico su scarpe altissime e sorride ai fotografi. Dai sandali di Prada ai pantaloni di Emilio Pucci dal sapore vintage, dalle borse con la catenina di Chanel a quelle enormi di Yves Saint Laurent. Senza disdegnare naturalmente pezzi low cost che sottintendono un messaggio alle fan, questo potete averlo anche voi. Tutto quello che addosso a lei diventa sempre di tendenza. 1988, Melbourne. Siamo a una manifestazione benefica in un parco della città e hanno invitato Danny Minogue a cantare. Per raccogliere più ospiti hanno allargato l'invito anche a Kylie, che al momento sta facendo l'attrice in Neighbours. Come a dire, non è una cantante, ma la celebrità attira sempre gente. E così lei sale sul palco e canta la cover di The Locomotion, il brano più celebre della cantante afroamericana Little Eva, un pezzo cantato anche da Claudia Mori nel 64 con il titolo Quello che ti dico. Insomma, quando Kylie Minogue canta, il pubblico è in delirio. Che fa la soap opera, pensano già i più cinici che stanno in silenzio mentre gli altri applaudono. E invece no, perché è brava davvero. La dimostrazione è che questa performance arrivata per caso le frutta un contratto con la Mushroom Records. L'anno dopo, il singolo che ha inciso entra direttamente al numero uno della classifica australiana e scala le classifiche di mezzo mondo, diventando uno dei più famosi successi inaspettati della storia della musica, nonché il singolo più venduto in Australia durante gli anni Ottanta. Se Kylie Minogue viene messa immediatamente sotto contratto, non è solo per la sua voce. Brava e brava, ci mancherebbe, ma ha qualcosa in più. Un talento speciale che fa sì che prenda possesso del palcoscenico in un modo unico. Per lei, all'inizio come oggi, conta tanto la musica quanto l'esibizione, lo show. Certo, oggi ha tutti i mezzi per dare al pubblico un'esperienza indimenticabile. Il suo palco è sempre una grandiosa opera di ingegneria sul quale prendono vita scenografie, balletti, vere e proprie scene teatrali. Nulla è lasciato al caso. Dalle luci ai costumi Kylie pretende sempre il massimo. E i suoi collaboratori non vedono l'ora di accontentarla, perché il risultato di tutto questo grande lavoro collettivo è sempre a dir poco strabiliante. Per il tour di Aphrodite, per esempio, ho cercato di fare qualcosa di veramente spettacolare. Ho voluto creare più di una semplice serie di concerti. Un'esperienza vera e propria, qualcosa che faccia rimanere tutti a bocca aperta. Musicisti eccezionali, una troupe di ballerini, un'atmosfera eterea, mixata con suoni più duri, tanta fantasia e divertimento. La componente naturale di ogni show ben riuscito è proprio il fattore sorpresa. Un concerto deve essere un momento unico, dove si condividono gioia ed eccitazione. Un momento magico per tutti. Chi vive su un'isola, per quanto possa essere grande come un continente, sente sempre di essere lontano dal centro del mondo. Ecco perché, in seguito all'improvviso successo del suo primo singolo, Kylie Minogue decide di trasferirsi a Londra. Adesso lo sa, vuole fare la cantante. Resiste ancora un annetto per motivi di sceneggiatura e poi lascia anche Neighbours, con sommo dolore di tutti i fan. Ci ha pensato moltissimo prima di farlo. La soap in cui è entrata ancora sconosciuta l'ha resa una vera star, non solo in Australia, ma ovunque venisse trasmessa. Era il caso di deludere i fedelissimi spettatori che seguivano ormai da anni le vicende del suo personaggio, sia in TV che sui tabloid? Ma tant'è, a volte bisogna lasciarsi guidare dall'istinto e lasciare la sicurezza per un futuro in apparenza promettente, ma che potrebbe rivelarsi una bolla. Non credo che capiti spesso di guardarci alle spalle. Magari a Natale, quando si sfoglia un album. Ma non ci ho mai perso troppo tempo. Invece quest'anno abbiamo rispolverato un sacco di foto e tanti filmati che mi hanno riportato alla mente vecchi ricordi. Dalla mia prima registrazione al mio primo album. Ero una bambina. Avevo tante emozioni contrastanti. Appena arrivata a Londra, Kylie è spaesata. Non conosce praticamente nessuno, ma in tasca ha un indirizzo di un vecchio amico di suo padre da cui appoggiarsi temporaneamente mentre si cerca una casa. È tutto diverso rispetto all'Australia. Nonostante sia cresciuta in una grande città, moderna quanto la capitale inglese, sente che le manca già quel contatto con la natura che per gli australiani pare essere al limite del bisogno primario. Si accontenta perciò di passare il suo tempo libero nei parchi, approfittando di quel poco sole timido che si affaccia per poche ore d'estate e pochissime d'inverno. Fa lunghe passeggiate, legge seduta sulle panchine e corre come sempre ha fatto fin da ragazzina. Ma se è arrivata in Europa è soprattutto per lavorare. La sua casa discografica, che in lei crede moltissimo al punto da farci un sostanzioso investimento, le ha già creato un bel giro di contatti. Siamo al suo primo magnifico incontro del destino, quello con il team di produttori Stock, Aitken e Waterman. A loro devo moltissimo. Mi hanno insegnato a mixare, a usare in un certo modo basso e batteria elettronica. Dopo aver lavorato con loro, mi è rimasta un'impronta. Anche quando faccio cose diverse, la loro impronta si sente. Stock, Aitken & Waterman è il nome collettivo con cui sono maggiormente conosciuti Mike Stock, Matt Aitken e Pete Waterman, noti anche con l'acronimo SO. Forse ai non addetti ai lavori questo non dirà molto, ma la loro influenza si sente in moltissimi artisti per i quali hanno lavorato o che semplicemente hanno influenzato. A cavallo degli anni 80-90, infatti, sono i protagonisti indiscussi dell'Europop, un sound dance basato sulla ripetizione di linee di basso altamente percussive e riff di batteria elettronica. Risultato? In 5 anni, dall'85 al 90, ben 13 brani che balzano al primo posto nella classifica inglese dei singoli sono loro. Il loro successo esplode con la hit You Spin Me Round per i Dead or Alive, capitanati dall'eccentrico frontman Pete Burns. Il brano viene anche inserito nella colonna sonora di Scarface, il che contribuisce a renderlo celeberrimo ovunque. Per il gruppo, il trio produce anche il secondo e il terzo album, ma la lista dei solisti e delle band che si sono affidati al lavoro dei So è veramente lunga. Le inglesi Bananarama, Rick Astley, Samantha Fox e persino la nostra Sabrina Salerno, incarnazione dei favolosi 80s, che è entrata nella classifica inglese con un loro brano, All of Me. La prima volta che li ho incontrati ero davvero agitata. Non mi rendevo conto che anch'io, per loro, ero una star. Io mi sentivo solo una ragazzina impaurita in un paese che non conoscevo. E poi, lentamente, mi sono aperta e abbiamo cominciato a lavorare. Me lo ricordo ancora come se fosse ieri. È stato fantastico. Dopo un paio di singoli di successo planetario, Kylie Minogue, ancora giovanissima ma già veterana del mondo dello spettacolo, fa uscire il suo primo album. Si intitola semplicemente Kylie ed è un nome che porta bene visto che arriva a vendere circa 7 milioni di copie. Lo stile è acerbo, una grande salsa teen pop farcita da un pizzico di dance, ma pare che il mondo in questo periodo non voglia sentire altro. Sono andata avanti con determinazione e un pizzico di fortuna. Mi sento come se questo fosse quello per cui sono qui, il mio destino. Quindi cerco di portare avanti questa esperienza che è sempre stata bellissima. Oh, i magnifici destini. Ai magnifici destini, la protagonista di oggi è la diva del pop che con Madonna si contende lo scettro di regina del dance floor. Piccola, proporzionatissima e adorata dagli stilisti. È Kylie Minogue. Ma ho avuto alti e bassi nella mia carriera, ma è sempre stato un viaggio appassionante. Lo devo soprattutto alle persone che ho incontrato, che mi hanno fatta crescere, come professionista, ma anche come persona. Si può dire che Kylie faceva spettacolo da sempre. Dopo svariate partecipazioni a programmi della TV australiana da ragazzina, è entrata nel cast di una soap opera di grande successo, Neighbours, e ha presto strappato il suo primo contratto discografico, facendosi notare mentre cantava un festival di beneficenze. Seguono il singolo d'esordio in vetta alle classifiche di tutto il mondo e l'inizio di una nuova vita a Londra, affiancata da Stock, Aitken & Waterman, geniale collettivo di produttori che con il primo album ne ha fatto una vera star. Il tour di Enjoy Yourself parte in grande stile, inaugurando quella lunga serie di live conditi da effetti speciali che continua ancora oggi. Kylie non è solo una cantante, è una performer a 360 gradi, in grado di ballare, recitare, tenere il palcoscenico in un modo assolutamente personale. Parte importante dei suoi live evento sono da un lato le sontuose scenografie, dall'altra i costumi. Ogni volta cerca di superarsi, profondamente convinta che per conquistare il pubblico bisogna sempre stupirlo. Sempre più ballerini, coreografie spettacolari, abiti magari semplici, come un paio di shorts dorati, ma indimenticabili. Ogni cosa che indosso, cerco di farla diventare un'icona. È stato così per molti dei miei abiti. Ai tempi di Enjoy Yourself, fine anni 80 per intenderci, Kylie Minogue è già una star internazionale. Ma nonostante la collaborazione con i Soul, il geniale trio di produttori, la sua personalità e la sua musica sono ancora acerbe. Seguendo il trend in voga in quel momento, infatti, le sue canzoni sono un misto di dance e teen pop corrispondenti a un suo look un po' troppo caramelloso. I critici si sono accorti di lei, impossibile non farlo, con una che appena lancia un singolo lo fa schizzare dritto dritto nella top 10, ma cominciano a consigliarle, più o meno tra le righe, di crescere. È ormai tempo che la sua immagine si distacchi dall'essere la star dei bambini e cominci il suo percorso artistico. Lei, gioiosa di carattere, comincia a essere d'accordo con loro. Questo lavoro la diverte, è vero, ma sempre di più sta acquistando i toni della professione e come tale Kylie vuole che duri nel tempo. Ce ne sono state fin troppe di meteore, di gente balzata agli onori della cronaca per una canzone e poi dimenticata da tutti. Questa fine lei non la vuole fare, soprattutto perché è certa che il suo talento la porterà lontano. Avevo delle belle sensazioni. E non solo perché le cose mi stavano andando bene. Beh, quel colpo di fortuna può succedere a tutti una volta nella vita. No, io volevo andare avanti per la mia strada perché sentivo che la musica era il mio destino. Non avrei voluto nient'altro. Diciamo la verità. C'è anche qualcuno che sta influenzando moltissimo le scelte di Kylie. È il suo fidanzato. Stanno insieme da un po' e rappresenta il suo secondo magnifico incontro del destino. Si chiama Michael Hutchence. Il successo si comporta come un animale, si comporta con te come tu ti comporti con lui. Non c'è via di scampo. Ombroso, lunatico, spesso malinconico. Se è vero che gli opposti si attraggono, la relazione tra Michael Hutchence e Kylie Minogue è l'esempio perfetto. Anche Hutchence è un musicista. Ha portato al successo gli INXS, diventandone il carismatico frontman. Di 8 anni più grande di Kylie, come lei, è australiano. È nato a Sydney, cresciuto a Hong Kong, ed è poi ritornato a Sydney durante l'adolescenza. Qui ha formato la sua band mettendo insieme un gruppo di amici, ha avuto le prime ragazze, e qui ha incontrato la Minogue. Sembra una storia come tante, e invece purtroppo l'epilogo sarà tragico. Tear us apart. Michael Hutchins è quello che si può definire un playboy. Nel suo curriculum figurano tra le altre la modella Elena Christensen, super top degli anni 80, e Paula Heitz, con cui si è fidanzato mentre lei stava divorziando da Bob Geldof. Ma è con Kylie Minogue che ha una storia lunga e molto speciale. Eravamo molto diversi. Io solare, con tanta voglia di divertirmi, e lui cupo, solitario. Passava molto tempo chiuso nella sua casa di Sydney, alla fine di Kirkintone Road. Era dolcissimo e mi ha insegnato molto di quello che so sulla musica. Era un musicista coi fiocchi, bravissimo. Rock, con una strizzata d'occhio al pop e in aggiunta un pizzico di funk. Non è facile definire lo stile in continua trasformazione degli In Excess. Quello stesso stile da cui, grazie a Hutchins, la stessa Kylie Minogue avrebbe preso ispirazione. Gli In Excess sono una delle pagine più brillanti del frizzante decennio 80-90, perché accontentano tutti e ricevono critiche da ogni parte. Per i rocker doc sono troppo mainstream, i cultori della classifica gli imputano talvolta di non essere abbastanza commerciali, insomma, bene o male, l'importante è che se ne parli, e difatti il loro segno nella storia della musica lo hanno lasciato e come. Noi siamo come ci definiscono, e allo stesso tempo non siamo nulla di quello. Quando ce lo chiedono, ci piace definirci con l'idea di white boy dance music. I ragazzi di Sydney, capitanati dalla voce di Hutchins, hanno sfornato tante hit da primo posto in classifica e hanno accompagnato i motivetti da Heavy Rotation in radio con talento, estro, professionalità. Ecco perché in pieno periodo New Wave sono riusciti a sorprendere tutti. La vita ha dato a Michael molte soddisfazioni. Una band di successo, fan che lo adorano in tutto il mondo, una nuova ragazza. La storia con Kylie si è infatti conclusa da qualche tempo, ma con un bilancio positivo. Michael per Kylie ha scritto Suicide Blonde, che gli è valsa una nomination ai Grammy Award, e lei ha assorbito da lui tutto quello che poteva, grazie a lui è cresciuta, è cambiata. Nelle scelte musicali, nell'inclinazione alla cupezza, ma anche nel look, che ha cominciato ad essere più ammiccante, e nelle movenze, più disinibite al limite del trasgressivo, proprio come quelle del suo ex fidanzato, di cui si parla spesso come il nuovo Mick Jagger. Sembra avere tutto, Michael, eppure non è abbastanza. Insondabile il motivo, semmai ce ne sia stato uno, per cui la mattina del 22 novembre del 97 viene trovato impiccato nella sua stanza dell'hotel Ritz-Carlton in Double Bay, Sydney. Io non lo dimenticherò mai. È stata una perdita che ha lasciato un vuoto incolmabile nella mia vita. La bara di Michael Hutchins viene portata fuori dalla cattedrale di St. Andrew dagli altri membri della band e da suo fratello minore, Rhett, sulle note di Never Tear Us Apart. Solo pochi mesi prima, oscuro presagio, l'amico Simon Le Bon gli aveva dedicato Michael, You've Got a Lot to Answer For, brano che lo farà scoppiare in lacrime durante il primo live dopo il funerale. Kylie Minogue, abito nero e volto visibilmente stanco, cerca di mostrarsi composta, ma non sempre ce la fa. La unisce a lui una relazione speciale che a volte ha la sensazione, anche oggi, non sia ancora finita. A volte lo sogno, altre ho la sensazione che lui mi parli dalla tomba. Ho sempre seguito i suoi consigli e ne ho fatto un modello. Mi manca tantissimo. Mi accorgo di quanto mi manca ogni volta che devo fare una scelta. I magnifici destini. Ai magnifici destini siamo a un momento molto triste della vita di Kylie Minogue, quando nel 97 il suo ex fidanzato Michael Hutchins, frontman degli In Excess, viene trovato morto in un hotel di Sydney. I due non erano più insieme da un po', ma lui l'aveva già lasciato moltissimo. Un modo diverso di fare musica, che mescola pop, dance e un po' di rock, e uno stile sul palco e nella vita davvero nuovo. zuccherosa e familiare prima, adesso Kylie è un'altra. Più sfrontata, più matura. Ma la trasformazione non è ancora completa. Perché lo sia, ancora una volta c'è di mezzo un magnifico incontro del destino. Quello con Nick Cave. Devo moltissimo a Nick. Mi è stato vicino da quando l'ho conosciuto, come fosse un fratello. Quando lo chiamo, lui per me c'è sempre, che io voglia ridere o piangere. Sono felice di averlo trovato, è un punto di riferimento importante nella mia vita. Se Hutchence era molto diverso da Kylie, non parliamo di quanto lo sia Nick Cave. I due, a parte essere entrambi australiani, sembrano avere ben poco in comune, eppure si sono influenzati in modo reciproco e non perdono occasione per ricordarlo. Lui è un artista a 360 gradi, cantautore, musicista, scrittore, sceneggiatore, compositore e occasionalmente anche attore. Ha iniziato con i Birthday Party e poi ha fondato i Nick Cave and the Bad Seeds, genere rock alternativo con influenze post-punk. Cave ha visto la sua amica Minogue per la prima volta quando, profondamente colpito dal suo disco Better the Devil You Know, aveva voluto a tutti i costi incontrarla. L'incontro si era poi trasformato in una chiacchierata, poi un'altra ancora, e alla fine in una collaborazione. Si tratta del famoso duetto Where the Wild Roses Grow, una ballata oscura in cui Kylie interpreta una donna vittima di un delitto passionale. Per lei era una cosa nuova, lo so. Per quello l'ho voluta e alla fine mi hanno dato tutti ragione, anche quelli che non ci credevano. He would be my first man, and with a careful hand, he wiped out the tears that ran down my face. They call me the wild rose, but my name's Eliza Day. Se l'album di Cave, Murder Ballads, è un successo, lo si deve in gran parte al singolo che ha cantato con Kylie Minogue. Siamo nel 96. Pochi mesi dopo muore Michael Hutchence e lei precipita nella depressione. Per quanto cerchi di reagire, fa fatica a capire, si arrovella, non riesce a darsi pace. E questo è il primo momento in cui Nick va oltre alla collaborazione artistica per diventare davvero suo amico. Cercavo un modo per aiutarla. Non potevo sopportare di vederla così. Volevo spronarla a buttarsi nella creazione perché aiuta a elaborare il lutto. E così Nick Cave regala a Kylie Minogue il libro intitolato Poems to Break the Hearts of Impossible Princesses di Billy Childish, raccomandandole di leggerlo. Lei per settimane lo ignora, dopo averlo abbandonato sul comodino. Poi una notte non riesce a dormire e lo prende in mano. Prima pagina, seconda, terza e poi ancora. Ogni tanto fa un orecchietto in alto alla pagina per non dimenticarsi un passaggio. Qualche giorno dopo sta già lavorando al suo nuovo disco, il più cupo, intriso di sonorità indie pop elettroniche, completamente scritto e gestito da lei. Titolo che è una citazione dovuta. Impossible Princess. È stato Nick a darmi la spinta per continuare. Con il libro e con la sua presenza mi ha insegnato a guardare al passato con meno rancore. Finalmente mi sembrava di essere riuscita a trasmettere con la musica quello che avevo dentro. Dopo il loro primo incontro, Kylie Minogue e Nick Cave portano avanti le loro rispettive carriere rimanendo molto amici. Nel 2009 lui scrive un libro, La morte di Bunny Munro. Il protagonista che dà il titolo al libro è un venditore porta a porta di prodotti di bellezza di dubbio valore, sociopatico e maniacale, ossessionato soprattutto da una figura, quella di Kylie Minogue. L'ossessione di Bunny viene dall'ossessione di una società consumistica e sessualizzata. Ogni cosa a cui guarda sembra parlargli, e queste sono le cose che lo eccitano. Cose, non lo so, viste su MTV, viste su Billboard o su altre riviste. Sul retro del libro mi sono scusato con Kelly, ma era davvero importante per la storia averla nel libro. Personalmente l'ammiro molto e quindi è stato semplice. So che non si è arrabbiata comunque. Siamo amici, abbiamo lavorato insieme ed è fantastica. Due uomini, due musicisti, due magnifici incontri del destino per Kylie Minogue. Michael Hutchence e Nick Cave fanno di lei una donna forte, che può giocare con la sua immagine di bambolina nella consapevolezza di essere in grado di camminare con le sue gambe. La trasformazione è completa. L'album Fiva apre il terzo millennio trainato da un singolo che definire di successo è riduttivo. Can't Get You Out of My Head. In tutte le discoteche del mondo, da Brasilia a Beirut, si balla sulle note di Kylie Minogue, che oggi festeggia 25 anni di carriera nella musica, pronta a ricominciare ancora, per stupire, per stupirsi.